Quanti di voi sono in età di essere stati lettori di Topolino nel lontano 1949? Ricorderanno forse, nonostante che con l'età la memoria non sia più quella di una volta, una storia intitolata Paperino e il feticcio. Vi si raccontava dell'improvviso arrivo a Paperopoli di uno zombie africano, anche se il traduttore dell'epoca, nella corretta supposizione che in Italia ben pochi sapessero che cosa cavolo fosse uno zombie, lo definiva con un termine fantastico coniato sul momento un gongoro, non so bene. Uno zombie incaricato da uno stregone di una remota tribù di consegnare a Paperon dei Paperoni un feticcio avvelenato che una volta stretto nel palmo della mano avrebbe progressivamente rimpicciolito il malcapitato destinatario riducendolo più o meno alle dimensioni di un topo. E ciò per vendicarsi di certe malefatte compiute nel continente nero dall'avido palmipede durante la sua avventurosa giovinezza. Lo zombie, peraltro, sbagliava destinatario, il feticcio finiva in mano a Paperino, che per evitare l'immeritato rimpicciolimento doveva partire per l'Africa alla ricerca di quel vendicativo stregone. È una storia molto divertente, sceneggiata e disegnata dal grande Carl Barks, uno degli autori più notevoli del team di Walt Disney, che probabilmente da allora in Italia è già stata ripubblicata, ma io non l'avevo mai rivista finché non è apparsa nell'ultimo numero, il numero 80 del maggio 96 di Zio Paperone, la rivista della Walt Disney Company Italia, deputata a pubblicare con criteri abbastanza filologici le vecchie storie del ciclo paperinesco. Non voglio certo intrattenervi sul tema delle mie letture infantili, non è il caso. Voglio solo richiamare la vostra attenzione su un passaggio della breve prefazione premessa alle tavole, in cui si comunica tra l'altro che la versione ora ripubblicata è quella politically correct, politicamente corretta, in cui agli indigeni africani sono risparmiati certi stereotipi razzisti che all'epoca, nel 1949, erano di uso comune. È una frase di fronte a cui i conti non tornano, in qualche modo non tornano. Com'è possibile, pensa il lettore stupefatto, che sia politicamente corretta una storia in cui gli africani vivono nella giungla, in villaggi di capanne circolari col tetto conico, e vestono dei ridotti perizoma ai fianchi, brandiscono delle lance e delle zagaglie dall'aspetto primitivo, praticano la magia nera e oltretutto sono anche dipinti come vendicativi e avidi di denaro, per cui basta lo sventolio di qualche dollaro da parte dei nipotini perché rinuncino ai loro cupi propositi e si precipitino di a fare acquisti in città. E d'altro canto, riflettendoci bene, che bisogno ha di essere politicamente corretta una favola i cui punti di riferimento sono completamente fantastici, tutti interni a un sistema di stereotipi narrativi che non può proprio offendere nessuno, semplicemente perché indigeni africani come quelli che qui si muovono non esistono e non sono mai esistiti altro che nei libri d'avventura e nei film ad essi ispirati. Eppure la cattiva coscienza del corpo redazionale, o di chi per loro naturalmente, ha sentito il bisogno di operare in qualche modo sui personaggi di origine africana in modo che fosse esplicita la volontà di trattarli correttamente, non potendo eliminare i non pochi tratti della vicenda che a prenderli sul serio suonerebbero sostanzialmente razzisti, perché sarebbe stato necessario eliminare tutta la storia, ha deciso di intervenire su una scorrettezza, come dire, formale. E così, con un tratto di penna, agli indigeni, gongoro compreso, è stato eliminato l'anello che portavano vistosamente al naso. Oggi l'anello al naso lo portano in parecchi, compreso i nostri fratellini minori, figlioletti e nipoti, e non ci bada nessuno. Ma è probabile che raffigurare con quell'ornamento gli abitanti dell'Africa nera non sia antropologicamente così corretto. E può darsi che qualcuno abbia sentito la raffigurazione come particolarmente offensiva. E poi, come si dice, quel che conta è l'intenzione. E evidentemente, per chi ha deciso l'operazione, che da un punto di vista strettamente filologico si configura come un intervento falsificatorio, visto che i disegni originali sono stati tutti accuratamente ritoccati, per chi ha deciso l'operazione era importante segnalare il proprio desiderio di non offendere nessuno. Anche nel momento in cui si accingeva a ripubblicare una storia che, se presa con valore documentario, non poteva certo non dispiacere ai lettori di pelle nera, africani o americani che fossero, la storia è rimasta quella che era, con tutti i suoi significati reali o supposti. Ma ritoccando le tavole, eliminando quel vecchio singolo stereotipo, l'editore chiede scusa in anticipo, in pratica. Compie un gesto simbolico, lo dichiara espressamente nel caso che qualcuno sia sfuggito, e non ha bisogno di giustificare nient'altro. Tanto poco oggi basta per essere politicamente corretti. C'è un po' scritto. Personalmente, ve l'ho già detto prima, non credo affatto che quel modo di raffigurare l'Africa e i suoi abitanti possa essere in nessun modo offensivo per nessuno, proprio perché è una raffigurazione esclusivamente fantastica. Ma un po' di sano, vero razzismo, quello che si esercita soprattutto in casa propria, chissà come è riuscito a infiltrarsi anche in Paperino il Feticcio. Nel quarto quadretto della prima tavola, il protagonista, Paperino, desideroso di informazioni sugli zombie o gongoli che dir si voglia, si rivolge a tale Valvolone, che dovrebbe sapere tutto sui fantasmi. Costui, nell'edizione che ho sott'occhi, ha soltanto la pelle colorata in un vago marroncino, ma visto che va in giro in cappello a cilindro e con una tromba sotto al braccio, deve essere un suonatore di jazz, e quindi indubbiamente un cittadino di colore. E risponde infatti secondo tutti gli stereotipi del negro irrazionale e superstizioso. Il gongolo, dice, è un tizio che non esiste, ma se esistesse non dovrebbe esistere. E lui non ne ha mai visto uno, per fortuna, ma se lo vedesse chiuderebbe gli occhi per non vederlo. Il Paperino se ne va sghignazzando e pensando, guarda un po' com'è superstiziosa e credulona la gente. Beh, falsificazione per falsificazione, forse in nome della correttezza si sarebbe potuto anche eliminare quell'episodietto, sono soltanto tre quadretti. Ma evidentemente l'editore ha pensato che eliminando l'anello al naso agli africani aveva già fatto fin troppo. Va bene essere politically correct, ma non è il caso di esagerare.